Capitolo 26. Ma Fred, il giorno successivo, non si recò a Stone Court per motivi assolutamente imperiosi. Da quelle visite per le strade malsane di Hounslow alla ricerca di Diamond, si era portato a casa non solo un cattivo affare, sotto forma di un cavallo, ma l'ulteriore disavventura di un qualche malanno, che per un paio di giorni era sembrato una semplice depressione accompagnata da mal di capo, ma che peggiorò tanto quando fece ritorno dalla sua visita a Stone Court. Che è entrato nella sala da pranzo, si buttò sul divano e, in risposta alla domanda ansiosa della madre, disse: «Mi sento molto male. Penso che dobbiate mandare a chiamare Wrench». Wrench arrivò, ma non notò nulla di serio. Parlò di una lieve indisposizione e non disse che sarebbe tornato il giorno successivo. Teneva nel debito conto casa Vinci, ma gli uomini più accorti sono portati dalla routine a una certa indifferenza e nelle mattine indaffarate talvolta sbrigano le loro faccende quotidiane con l'interesse del campanaro. Mister Wrench era un ometto lindo e bilioso, con una parrucca ben ordinata. Aveva un'attività laboriosa, un temperamento irascibile, una moglie linfatica e 7 figli, ed era già piuttosto in ritardo prima di intraprendere una scarrozzata di 4 miglia per incontrarsi col dottor Minkin, all'altro capo di Tipton, poiché il decesso di X, un generico di campagna, aveva fatto aumentare la clientela di Middlemarch da quella parte. Sbagliano i grandi statisti, e perché non dei poveri medici? Mister Wrench non si dimenticò di mandare le consuete bustine bianche che questa volta avevano un contenuto nero e drastico. Non alleviarono la malattia del povero Fred, il quale tuttavia, non essendo disposto a credere di aver preso una malattia, il mattino successivo si alzò all'ora consueta e scese da basso intenzionato a fare colazione. Ma non riuscì a far altro che a sedersi presso il fuoco in preda ai brividi. Mister Wrench fu mandato a chiamare di nuovo, ma era fuori per il giro di visite e Mrs. Vincy, al vedere l'aspetto mutato e la sofferenza generale del suo prediletto, si mise a piangere e disse che avrebbe mandato a chiamare il dottor Sprague. «Oh, stupidaggini, mamma, non è niente», disse Fred, porgendole la mano arida e bollente. «Fra poco starò bene. Devo aver preso freddo in quella brutta cavalcata nell'umidità». «Mamma!» esclamò Rosamond, che era seduta vicino alla finestra. Le finestre della sala da pranzo davano su quella strada altamente rispettabile chiamata Lowick Gate. C'è Mr. Lydgate che si è fermato a parlare con qualcuno. Se fossi in voi lo chiamerei dentro. Ha guarito a Ellen Balstrode, dicono che guarisca tutti. Mrs. Vincy con un balzo fu alla finestra e la spalancò in un attimo, pensando solo a Fred e non all'etichetta. Lydgate era solo 2 metri più in là, dall'altro lato di un recinto in ferro, e si girò al rumore improvviso del telaio scorrevole della finestra prima che la donna lo chiamasse. Nel giro di 2 minuti era nella stanza e Rosamond ne uscì dopo aver atteso il tempo che bastava per mostrare un'ansia considerevole in lotta col suo senso del decoro. Lydgate dovette sorbirsi un racconto in cui Mrs. Vincy insistette con notevole istinto su ogni punto di minore importanza, soprattutto su ciò che Mr. Wrench aveva detto e non aveva detto a proposito di una nuova visita. Che ne sarebbe seguita una storia imbarazzante con Wrench e Lydgate lo capì subito, ma il caso era troppo serio ed egli bandì subito questo pensiero. Era convinto che Fred fosse affetto da febbre tifoidea ora allo stadio di incubazione e che avesse preso proprio le medicine sbagliate. Doveva mettersi a letto immediatamente, doveva avere un'infermiera fissa e si dovevano prendere varie disposizioni e precauzioni che Lydgate definì con minuziosità. Il terrore della povera Mrs. Vincy di fronte a queste indicazioni di pericolo trovò sfogo nelle parole che le vennero più facilmente. Essa lo giudicò un trattamento molto sgarbato da parte di Mr. Wrench, il quale assisteva alla loro famiglia da tanti anni, preferito a Mr. Peacock, sebbene Mr. Peacock fosse ugualmente il loro amico. Perché Mr. Wrench dovesse trascurare i suoi figli più degli altri, non riusciva assolutamente a capirlo. Non aveva trascurato quelli di Mrs. Larker quando avevano avuto il morbillo, né Mrs. Vincy voleva che lo avesse fatto. E se fosse successo qualcosa? A questo punto l'energia abbandonò completamente Mrs. Vincy e la sua gola da niobe e il suo volto bonario furono sopraffatti da penose convulsioni. Ciò accadeva nell'ingresso, dove Fred non poteva sentire, ma Rosamond aveva aperto la porta del salone e ora si fece avanti ansiosa. Lydgate chiese scusa per Mr. Wrench, disse che i sintomi il giorno precedente potevano essere stati fuorvianti e che questa forma di febbre all'inizio era assai ambigua. Si sarebbe recato immediatamente dal farmacista e si sarebbe fatto preparare la medicina per non perdere tempo, ma avrebbe scritto a Mr. Wrench e gli avrebbe comunicato cosa era stato fatto. «Ma voi dovete tornare, dovete con tonnora ad occuparvi di Fred. Non posso lasciare che il mio ragazzo sia curato da qualcuno che può venire o no. Non porto malanimo verso nessuno, grazie a Dio. Mr. Wrench mi ha salvato quando ho avuto la pleurite. Avrebbe fatto meglio a lasciarmi morire se incontrerò il dottor Wrench qui. Allora, volete? Disse Lydgate, veramente convinto che Wrench non fosse all'altezza di curare da esperto un caso di questo genere. Vi prego di mettervi d'accordo in questo senso, Mr. Lydgate, disse Rosamond venendo in aiuto della madre e sostenendole il braccio per condurla via. Allora Mr. Vincey tornò a casa. Era assai adirato nei confronti di Wrench e non gli importava se questi non si faceva più vivo in casa sua. Adesso era Lydgate a dover procedere, che a Wrench piacesse o no. Non era uno scherzo avere il tifo in casa. Ora bisognava andare ad avvertire tutti che non venissero a cena giovedì. E non c'era bisogno che Pritchard andasse in cantina a prendere del vino. Il brandy era la miglior cosa contro il contagio. Io berrò del brandy, aggiunse Mr. Vincey con energia, come dire, quello non era il momento per sparare con cartucce a salve. È un ragazzo particolarmente sfortunato, Fred. Avrebbe bisogno di un po' di fortuna ogni tanto per rifarsi di tutto, altrimenti non so che vorrebbe avere un figlio primogenito. Non dite così, Vincey, fece la madre col labbro tremante, se non volete che mi sia tolto. Sarete preoccupata da morire, Lucy. Questo posso capirlo, disse Mr. Vincey in tono più mite. Però Wrench saprà quello che penso della faccenda. Ciò che Mr. Vincey pensava confusamente era che la febbre si sarebbe in qualche modo potuta evitare se Wrench avesse dimostrato la dovuta sollecitudine per la famiglia di lui, del sindaco. Io sono l'ultimo a credere alle voci che circolano sui nuovi medici o anche i nuovi parroci, che siano uomini di Bulstrode oppure no. Ma Wrench saprà cosa ne penso, la prenda come gli pare. Wrench non la prese per nulla bene. Lydgate fu educato come poteva esserlo col suo fare distaccato, ma le buone maniere in uno che vi ha messo in una condizione di svantaggio contribuiscono solo a esasperarvi di più, in particolar modo se si dà il caso che questi sia stato in precedenza oggetto di antipatia. I medici generici di provincia erano una specie irritabile, permalosi in fatto d'onore, e fra di essi Wrench era il più irritabile. Non si rifiutò di incontrarsi con Lydgate in serata, ma in quell'occasione il suo temperamento fu piuttosto provato. Dovete sentirsi dire da Mrs. Vincey: Oh, Mr. Wrench, cosa ho mai fatto per essere trattata così? Andarvene e non tornare più. E il mio ragazzo avrebbe potuto essere morto stecchito. Mr. Vincey, che aveva continuato a fare intensamente fuoco contro il nemico contagio e che di conseguenza era piuttosto surriscaldato, balzò in piedi quando udì Wrench entrare e andò nell'ingresso per fargli sapere quello che pensava. Sapete cosa vi dico, Wrench? Questo è uno scherzo poco simpatico, disse il sindaco che, avendo dovuto ultimamente rimproverare dei contravventori con aria ufficiale, ora assunse un'aria di importanza mettendosi i pollici nel giro delle maniche. Lasciare che il tifo entri di nascosto in una casa come questa. Ci sono delle cose che dovrebbero essere perseguibili per legge e non lo sono. Questa è la mia opinione. Ma i rimproveri razionali furono più facili da sopportare della sensazione di ricevere una lezione, o meglio, della sensazione che uno più giovane come Lydgate in cuor suo pensasse che gli avesse bisogno di una lezione, perché in realtà, disse in seguito Mr. Wrench, Lydgate esibiva idee irresponsabili, peregrine, che non avrebbero retto. Egli inghiottì la sua bile per il momento, ma pure scrisse che declinava di occuparsi ulteriormente del caso. Poteva anche essere una buona famiglia, ma in campo professionale Mr. Wrench non si sarebbe inchinato servilmente davanti a nessuno. Rifletté, con molte probabilità a suo favore, che anche Lydgate lì a poco sarebbe stato colto in fallo e che i suoi tentativi villani di screditare la vendita di medicine da parte dei suoi colleghi si sarebbero ben presto ritorti contro di lui. Si lasciò sfuggire osservazioni sferzanti sugli stratagemmi di Lydgate, degni solo di un ciarlatano, per farsi una reputazione falsa presso i creduloni. I bravi generici non ricorrevano mai a questi discorsi affettati sulle cure. Questo era un punto che fece soffrire Lydgate quanto Wrench poteva desiderare. Essere lodato dall'ignoranza altrui era non solo umiliante, ma pericoloso e non più invidiabile della reputazione del meteorologo e dilettante. Non sopportava le stupide speranze in mezzo alle quali si deve svolgere ogni lavoro ed era molto probabile che si danneggiasse da solo quanto Mr. Wrench poteva desiderare a causa di una franchezza non professionale. Comunque Lydgate si insediò come medico dei Vincey e il fatto fu argomento di conversazione da parte di tutti a Middlemarch. Alcuni dissero che i Vincey si erano comportati in modo scandaloso, che Mr. Vincey aveva minacciato Wrench e che Mrs. Vincey lo aveva accusato di avvelenarne il figlio. Altri furono dell'opinione che il fatto che Mr. Lydgate si trovasse a passare di lì era stato provvidenziale, che si intendeva delle febbri in modo fantastico e che Balstrode aveva ragione a sostenerlo pubblicamente. Molti credevano che il solo fatto che Lydgate fosse venuto in città fosse in realtà opera di Balstrode e Mrs. Taft, che era sempre intenta a contare le maglie e che raccoglieva le proprie informazioni in frammenti fuorvianti, raccolti fra un giro e l'altro dei suoi lavori a maglia, si era messa in capo che Mr. Lydgate fosse un figlio naturale di Balstrode, fatto che sembrava giustificare le sue diffidenze verso i laici evangelici. Un giorno comunicò questa sua informazione a Mrs. Fairbrother, la quale non mancò di riferirla al figlio, osservando: "Non mi sorprenderei di nulla in Balstrode, ma mi spiacerebbe pensare a una cosa simile di Mr. Lydgate." "Ma mamma," disse Mr. Fairbrother dopo una sonora risata, "sapete benissimo che Lydgate appartiene a una buona famiglia del nord. Prima di venire qui non aveva mai sentito parlare di Balstrode." "Il ragionamento mi persuade per quanto riguarda Mr. Lydgate, Camden," disse la vecchia signora con l'aria di voler precisare le cose. "Ma nel caso di Balstrode, può darsi che sia fondata la voce che ha un qualche altro figlio." Capitolo 27. Un eminente filosofo amico mio, che può nobilitare anche il vostro brutto mobilio elevandolo alla luce serena della scienza, mi ha mostrato questo piccolo esperimento significativo. Sulla vostra specchiera o su un'estesa superficie di acciaio lucido, fatta strofinare da una cameriera, si verranno a formare delle striature minute e numerosissime in tutte le direzioni. Ma ora, disponete davanti a essa una candela accesa come fonte di illuminazione e guardate. Le striature vi sembreranno disporsi in cerchi concentrici attorno a quel piccolo sole. Si può dimostrare che le striature vanno imparzialmente in tutte le direzioni e che è solo la vostra candela a creare quell'illusione ingannevole di una disposizione concentrica, irradiando la luce che opera un'intera selezione ottica. Questa è una parabola. Le striature sono gli eventi e la candela è l'egoismo di qualsiasi persona, esclusi i presenti, di Miss Vinci, per esempio. Rosamond aveva una sua provvidenza che era stata così gentile da crearla più affascinante di altre ragazze e che sembrava aver predisposto la malattia di Fred e lo sbaglio di Mr. Wrench per avvicinare lei e Lydgate in maniera adeguata. Avrebbe significato contravvenire a queste disposizioni se Rosamond avesse consentito ad andarsene a Stone Court o altro, come i genitori desideravano che facesse, soprattutto poiché Lydgate considerava inutile la precauzione. Perciò, mentre Miss Morgan e i bambini furono mandati in una fattoria il mattino dopo che la malattia di Fred si fu palesata, Rosamond rifiutò di lasciare il padre e la madre. La povera mamma era in uno stato da commuovere qualsiasi nato da donna e Mr. Vincey, che andava pazzo per la moglie, aveva più paura per lei che per Fred. Se non fosse stato lui a insistere, lei non si sarebbe presa un attimo di riposo. La sua vivacità era tutta offuscata, incurante degli abiti che erano sempre stati così freschi e gai, era come un uccello malato con gli occhi e le penne arruffate, insensibile ai suoni e agli spettacoli a cui era solita interessarsi maggiormente. Il delirio di Fred, in cui egli pareva vagare senza che essa potesse raggiungerlo, le spezzava il cuore. Dopo il primo scatto contro Wrench, si mosse con molta calma. Il suo unico grido a bassa voce era rivolto a Lydgate. Lo seguiva fuori della stanza e gli posava la mano sul braccio, gemendo: "Salvate mio figlio!" Una volta gli disse con voce implorante: "È sempre stato buono con me, Mr. Lydgate. Non ha mai avuto una parola cattiva per sua madre." Come se le sofferenze del povero Fred fossero un'accusa contro il ragazzo. Tutte le fibre più profonde del ricordo materno furono scosse e il giovanotto, la cui voce assumeva un tono più gentile quando si rivolgeva a lei, era tutt'uno con l'infante che lei aveva amato. Di un amore a lei sconosciuto prima ancora che nascesse. "Ho buone speranze, Mrs. Vincey," diceva Lydgate. "Scendete con me e parliamo del cibo." In tal modo, egli la conduceva nel salotto dove si trovava Rosamond e le procurava un diversivo, inducendola a sua insaputa a prendere un po' di tè o di brodo che le era stato preparato. Vi era un costante accordo fra lui e Rosamond a questo proposito. La vedeva quasi sempre prima di recarsi nella stanza del malato e le si rivolgeva a lui riguardo a quello che doveva fare per la madre. La presenza di spirito e la destrezza con cui eseguiva i suoi suggerimenti erano ammirevoli, e non c'è da stupirsi che l'idea di vedere Rosamond cominciò a confondersi con il suo interesse per il caso, soprattutto quando fu passato il momento critico e cominciò a sentirsi fiducioso nella guarigione di Fred. Nel momento di maggiore incertezza aveva consigliato di chiamare il dottor Sprague, il quale, se avesse potuto sapere, sarebbe rimasto neutrale a causa della sua amicizia con Wrench. Ma dopo due consulti il caso fu lasciato a Lydgate e vi era ora ragione perché se ne occupasse assiduamente. Mattina e sera era a casa di Mr. Vincey e poco a poco le visite cominciarono a diventare allegre mentre Fred si sentiva semplicemente indebolito e non solo aveva bisogno di essere coccolato al massimo, ma ne era anche consapevole. Cosicché a Mrs. Vincey parve che dopo tutto la malattia fosse stata l'occasione di una festa per la sua tenerezza. Sia il padre che la madre si sentirono ancora più incoraggiati al buon umore allorché il vecchio Mr. Fairstone inviò dei messaggi tramite Lydgate in cui diceva che Fred doveva affrettarsi a rimettersi in sesto, in quanto lui, Peter Fairstone, non poteva fare senza di lui e sentiva con tenerezza la mancanza delle sue visite. Il vecchio stesso cominciava a essere costretto a letto. Mrs. Vincey comunicò questi messaggi a Fred quando questi fu in grado di ascoltare ed egli le rivolse quella sua faccia delicata e smunta da cui era stata rasata tutta la folta chioma bionda e in cui gli occhi sembravano essersi dilatati, desideroso di sapere qualcosa di Mary, curioso di sapere cosa provasse per la sua malattia. Nessuna parola gli usciva di bocca, ma udire con gli occhi appartiene al raro acume dell'amore e la madre, nella grandezza del suo cuore, non solo indovinava il desiderio di Fred, ma si sentiva pronta a qualsiasi sacrificio pur di farlo contento. Se solo potessi tornare a vedere il mio ragazzo ancora forte, disse nella sua follia amorosa, e chissà, forse è padrone di Stonecourt, e allora potrà sposare chi vuole. Se non mi vogliono, no, mamma, disse Fred. La malattia l'aveva reso infantile e mentre parlava gli venne da piangere. Oh, prendi un po' di gelatina, caro, disse Mrs. Vincey. Cuor suo incredula che ci potesse essere un tale rifiuto. Non si staccava mai dal fianco di Fred quando il marito non era in casa e così Rosamond venne a trovarsi nella condizione inconsueta di restare sola per molto tempo. Lydgate naturalmente non pensò mai di trattenersi a lungo con lei, eppure sembrava che delle brevi conversazioni impersonali fra loro creassero quella particolare intimità che è tipica della timidezza. Erano obbligati a guardarsi mentre parlavano e per un qualche motivo quello sguardo non si poteva sostenere come la cosa naturale che in realtà era. Lydgate cominciò a trovare sgradita quella specie di consapevolezza e un giorno guardò in giù, o da qualsiasi parte, come un burattino maneggiato male. Ma ciò ebbe delle brutte conseguenze. Il giorno successivo Rosamond guardò in giù e la conseguenza fu che quando i loro gesti si incrociarono di nuovo, entrambi ne erano più consapevoli di prima. La scienza in ciò non poteva aiutarli. E siccome Lydgate non aveva intenzione di amoreggiare, sembrava che non vi fosse alcun rimedio per quella follia. Fu quindi un sollievo quando i vicini non considerarono più la casa in quarantena e le possibilità di vedere Rosamond da sola si ridussero di molto. Ma l'intimità dell'imbarazzo reciproco, in cui ciascuno sente che l'altro sta provando qualcosa, una volta emersa, non può essere soffocata nei suoi effetti. I discorsi sul tempo e altri argomenti educati sono soggetti a sembrare un espediente vuoto e il comportamento ben difficilmente può divenire disinvolto a meno che non si riconosca francamente un'attrazione reciproca, il che naturalmente non significa per forza qualcosa di profondo e di serio. In questo modo Rosamond e Lydgate scivolarono graziosamente nella disinvoltura e ravvivarono il loro rapporto. I visitatori andavano e venivano come di consueto. Nel salotto si udì di nuovo la musica e l'ospitalità eccellente di Mr. Vincey, sindaco, si rianimò. Lydgate, ogni volta che poteva, si metteva a sedere a fianco di Rosamond e si fermava ad ascoltare la sua musica, dichiarandosi suo prigioniero, con l'intenzione sempre di non esserlo. L'assurdità delle idee che potesse mettere su famiglia immediatamente in modo adeguato era sufficiente garanzia contro il pericolo. Questo giocare ad essere un po' innamorato era piacevole e non intralciava progetti più seri. L'amoreggiare, dopo tutto, non era necessariamente qualcosa che lo impegnasse. Rosamond, per parte sua, non aveva mai gioito tanto in vita sua di giornate simili. Era certa di essere ammirata da qualcuno che valeva la pena di conquistare e non distingueva l'amoreggiamento dell'amore sia in se stessa che in un altro. Sembrava veleggiare, sospinta da un vento favorevole proprio verso la meta prescelta, e nei suoi pensieri c'era spesso una bella casa Lowick Gate che sperava si vuotasse al più presto. Era del tutto decisa. Quando si fosse sposata, a sbarazzarsi abilmente di tutti i visitatori della casa di suo padre che non le erano graditi. E immaginava il salotto della sua casa preferita arredato con mobili di vari stili. Certo, i suoi pensieri erano molto occupati da Lydgate stesso. Le sembrava quasi perfetto se avesse conosciuto le note così che la sua estasi all'udire la musica di lei fosse stata meno simile a quella di un elefante sentimentale. E se fosse stato capace di distinguere meglio le raffinatezze del gusto di lei in fatto di abiti, ben difficilmente essa avrebbe potuto citare un difetto in lui. Com'era diverso dal giovane Plimdale o da Mr. Caius Larker? Quei giovanotti non avevano un'idea del francese. E non erano in grado di parlare di nessun argomento con una conoscenza sorprendente, tranne forse che di colori e di trasporti, di cui naturalmente si vergognano a parlare. Erano nobilotti di Middlemarch, imbaldanziti con i loro frustini dalle estremità d'argento e calzini di raso, ma imbarazzati nei modi e timidamente gioviali. Persino Fred era superiore a loro, in quanto aveva almeno l'accento e i modi di un universitario. Al contrario, Lydgate aveva sempre chi lo ascoltava, si muoveva con la disinvolta educazione di una superiorità consapevole e sembrava avere i vestiti giusti addosso per una certa affinità naturale, senza dover mai pensare ad essi. Rosamond era orgogliosa quando egli entrava nella stanza e quando le si avvicinava con un sorriso particolare. Provava la deliziosa sensazione di essere oggetto di un omaggio invidiabile. Se Lydgate fosse stato consapevole di tutto l'orgoglio che suscitava in questo petto delicato, ne sarebbe potuto restare compiaciuto come qualsiasi altro uomo, anche il più ottusamente ignorante della patologia degli umori o del tessuto fibroso. Considerava uno degli atteggiamenti più carini della mente femminile, adorare la preminenza di un uomo senza sapere con troppa precisione in cosa consistesse. Ma Rosamond non era una di quelle ragazze deboli che si tradiscono senza saperlo e il cui comportamento è goffamente guidato dagli impulsi invece di essere governato da una grazia e un decoro circospetti. Credete che le sue rapide previsioni e riflessioni riguardanti i mobili di casa e le amicizie venissero mai allo scoperto nella sua conversazione, anche solo con la madre? Al contrario. Avrebbe espresso la più bella sorpresa e disapprovazione se fosse venuto a sapere che un'altra ragazza era stata colta in quell'atteggiamento di immodesta premeditazione. In effetti, probabilmente non avrebbe creduto che ciò fosse possibile. Infatti, Rosamond non mostrava mai di possedere alcun pensiero sconveniente, anzi, rappresentava sempre quella combinazione di sentimenti corretti, musica, danza, disegno, eleganti annotazioni, album personale di brani scelti di poesie e perfetta bellezza bionda, che rendevano la donna irresistibile per l'uomo prescelto di quei tempi. Non pensate ingiustamente male di lei, vi prego. Non aveva tramato nulla di malvagio, nulla di sordido o di mercenario. In effetti non considerava mai il denaro, se non come qualcosa di necessario che le sarebbe stato sempre fornito da altri. Non aveva l'abitudine di architettare menzogne, e se le sue affermazioni non davano un'idea definita della verità dei fatti, ebbene, esse non erano volute in quel senso. Facevano parte delle sue doti eleganti, intese a piacere. La natura aveva ispirato molte arti per completare quella fanciulla prediletta da Mrs. Lemon, che per consenso generale, eccettuato quello di Fred, era un misto raro di bellezza, intelligenza e amabilità.